fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, visto che ci avviciniamo al Natale, visto che tutti siamo buoni, visto che è il momento dei regalini, che è il momento delle famiglie, il momento dei buoni sentimenti, faremo un processo alla mamma. Perché processare le povere mamme? Già si rompono la schiena dai sacrifici, già sono additate da tutti, già per loro è tanto difficile, già nessuno riconosce il merito della loro eroica missione. Beh, siete voi qua per ricordarmi come mai io questa mattina sento il bisogno di fare il processo alle mamme. 800 24 00 24. Quella della mamma è un'esperienza che accomuna tutti noi. Qualcuno mi dirà: ah, io non ho mai conosciuto la mia mamma, sono un trovatello. Beh, però ce l'hai avuta. L'assenza della tua mamma comunque ti crea il concetto di mamma. Chiamate voi mamme, chiamate voi che avete una mamma, chiamate voi che avete ucciso vostra madre, nel senso simbolico naturalmente, che siete riusciti a liberarvi da questo contatto viscerale, profondo, ininterrotto. Chiamate voi che non potete fare a meno della mamma, chiamate voi mamme che avete i vostri figli sotto l'ala di chioccia, li tenete belli lì al calduccio e non li mollate mai, non li lasciate mai verso le intemperie del mondo. Chiamate voi mamme che vedete con orgoglio i vostri figli liberi andare in giro per il mondo. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di ver lontano perché. Mamma, solo per te la mia. Ho un profondo e sincero rispetto per i sentimenti altrui e anche profondo rispetto per ciò che ha significato questa canzone di Beniamino Gigli del 1940. Una canzone che ha stretto ancora di più il rapporto viscerale fra mamma e figli lontani, probabilmente che partivano, che andavano in luoghi lontani, che andavano a combattere, andavano in posti in cui probabilmente il sentimento della mamma, il ritorno alla fanciullezza, poteva avere un senso. Ma analizziamola in alcuni passaggi del suo testo. Mamma, son tanto felice. Viver lontano perché? Solo per te la mia canzone vola, ti voglio bene, giusto, ma giusto la canzone voli. Sento la tua mano stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Ora questo signore c'era 40-50 anni, i riccioli d'oro dove li ha rimasti, dove ci sono i suoi riccioli d'oro? Eppure sente ancora la mano canuta, adunca e unghiolata della madre che gli carezza i ricciolini d'oro. Sento e la voce ti manca, ninna nanna dall'oro. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Questa sorta di sentimento di strangolamento della madre o di morte comune o di fusione perenne con la madre. Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore forse non si usano più. No, si usano oggi più che mai, anche se non in questa espressione, ma la sintesi di questo agglomerato madre-figlio indissolubile è ancora ben presente, per questo ne parliamo. Se tu la vita... e per la vita non ti lascio mai più, mai più. Ecco, signore in ascolto, ascoltatrici, ma anche uomini che ascoltate, 800 24 00 24, cosa mai potreste farvi della vita di una persona che non lascerà mai più la mamma? L'avrà sempre vicina, sempre presente, ovunque, con questo indissolubile lacciuolo che lo lega a questa donna, se egli marito, se egli amico, se egli sposo, se egli amante, sia collega d'ufficio, sia partner di affari, avrà sempre una mamma dietro a lui che non lo mollerà per un istante. Naturalmente, visto che questa mattina è un processo alla mamma che vogliamo fare, un giusto eco processo con un'accusa, con una difesa, con una serie di testimonianze che saranno le vostre, voi che chiamerete, ho davanti a me quello che potrebbe essere considerata la pubblica accusa nei confronti della mamma. È Fabrizio Blini. Buongiorno Fabrizio Blini. Buongiorno. Ha scritto il libro Mamma mia, la figura della mamma come deterrente nello sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Italia moderna. Fabrizio Blini, lei parla di mammificazione come fosse una sorta di mummificazione, un processo irreversibile di conservazione di qualcosa che sa di cadaverico, e parla di attrazione fetale come il legame indissolubile fra mamma e figlio. Partiamo però dalla canzone, dalla suggestione sonora, la canzone di Beniamino Gigli. Vediamo di fare un'analisi di questo testo, soprattutto dell'esito umano che viene delimitato dalle parole di questa canzone. Beh sì, è un elogio dell'ergastolo questa canzone, perché praticamente si preclude qualsiasi possibilità di sviluppo personale concedendosi definitivamente all'amore della mamma e basta, cioè si limita in qualche modo tutta la sfera relazionale che è nelle possibilità di più un uomo che una donna, perché il mammismo è un fenomeno più maschile che femminile, e quindi si resta così un putto marcio, un pulcino ammuffito, perché a 50 anni tra le braccia della mamma con la testolina bianca. Due testoline bianche quel punto. Due testoline bianche che così generano un sistema pateticamente corretto, oserei dire. È un'esornazione della canizie, questa canizie dirompente che celebra se stessa e me non fa altro che... Ma io non vorrei da questo punto essere troppo sbilanciato, sennò la mia figura di mediatore sarebbe corrotta. Solo una cosa, Fabrizio Blini, lei fa una distinzione profonda... Ma perché ci diamo del lei? Diamoci del tuo, meglio. Fai una distinzione profonda fra il termine mamma e il termine madre. Ecco, qual è la radicale differenza? Beh, sì, la differenza è sostanziale ed è un punto cruciale del libro, perché la madre è la donna genitrice che genera un figlio, lo cresce, gli dà tutto l'amore necessario e poi progressivamente lo dà alla vita, lo dà al mondo, gli fa vivere la sua vita, per cui è un movimento da lei al mondo. Nelle culture tradizionali lo affida al padre, al mondo degli uomini, certo, perché diventi uomo. Certo. O se è donna che prende al testimone la necessità. Dopo di le fare... giuste cure necessarie, il figlio comincia a vivere la sua vita e si realizza come individuo indipendente. Mentre invece la mamma non ammette soluzione e tira eternamente a sé questo cordone ombelicale fino a così a renderlo un guinzaglio. Sì, mamma è l'onomatopea di mammella, in spagnolo mamar significa proprio succhiare, certo, al seno. È questa sorta di rapporto di allattamento, di nutrizione che non si ferma mai. No, è una dipendenza che alla fine a un certo punto diventa irreversibile, perché se un individuo non struttura gli anticorpi verso la vita nel momento necessario resterà eternamente dipendente dalla mamma, e ce ne sono parecchi. Ecco, cominciamo a portare alcune prove o a carico o a discolpa, naturalmente, la grande accusata mamma. Ricordo 800 24 0024, il numero per intervenire. Tutti abbiamo un'esperienza di mamma, chi l'ha avuta, chi non l'ha avuta, chi l'ha vicina, chi l'ha lontana, chi l'ha perduta e chi non se ne riesce a staccare. Vediamo oggi se riusciamo ad assolvere o condannare definitivamente la mamma. Intanto Anna abbiamo. Anna, si alzi e venga qui a rispondere. Buongiorno. Buongiorno. Lei è una mamma? Io sono una mamma di due ragazzi ormai grandi, 24 e 20 anni. Quindi svezzati, immagino. Sì, assolutamente. E niente, ogni tanto mi sento poco mamma, perché io vorrei proprio che loro se ne uscissero, se ne andassero. Ecco, questa è una deriva interessante, non so se l'aveva considerata nel suo libro Fabrizio Blini. La mamma che è costretta a essere mamma, lei vorrebbe essere madre, cioè vorrebbe scrostarseli dalle mamma. Appendici. Però lei è ancora mamma. Io sono molto mamma. Quindi lei si sente colpevole e responsabile del viscerale attaccamento dei suoi figli? O in realtà sono loro che non si riescono a staccare? No, loro sono abbastanza dipendenti, solo che vivo questa cosa in maniera strana, perché mi accorgo che le mie amiche, la società, eccetera, mi ritiene strana, perché io voglio che loro se ne vadano, che abbiano la loro vita, che ormai sia ora che le nostre strade si dividono. Quindi lei pensa che esista una dinamica nella società che anche le madri che vorrebbero staccarsi dal ruolo di mamme sono costrette a fare le mamme, perché ormai esiste una sorta di meccanismo automatico in cui occorre essere mamma per forza. Blini, hai individuato nelle tue ricerche questo tipo di modello? No, questo modello è un po' conflittuale, perché la signora vorrebbe essere madre ma è costretta a essere mamma. Effettivamente il mammismo è diventato poi una cultura della protezione, per cui molti figli si sentono così in diritto di pretendere una cuccia calda fino così a un periodo indefinito. Ma non esistono degli strumenti concreti e pratici per cui Anna, come tutte le mamme costrette, potrebbero realmente, radicalmente dare un taglio netto a questo cordone che sembra così difficile da staccarsi? In questo momento è particolarmente difficile, non a caso è venuta fuori anche la polemica dei bamboccioni l'anno scorso, no? Perché esistono delle difficoltà oggettive oggi più che mai, però il problema culturale... Sì, infatti è anche leggermente fuorviante, perché il bamboccione non è esito soltanto di una mamma, ma di una società che comunque certo. È mammocentrica nella sua essenzialità. Assolutamente. Assolutamente. Beh, visto che deve essere un equo processo, e stavo un attimo uscendo dal ruolo di imperscrutabile e impassibile mediatore, abbiamo quella che può essere abbozzata come una difesa della mamma, se è d'accordo nello svolgere questo ruolo, è Claudio De Lillo. Claudio De Lillo, buongiorno. Buongiorno. Claudio De Lillo ha scritto un libro, non solo mamma, ma è autrice di un fortunatissimo blog che ha anche avuto stratosferici premi, dedicato proprio al fatto di essere mamma, una mamma che è anche giornalista, quindi una mamma che lavora, ha due pargoletti in tenerissima età e deve centellinare le sue energie per essere mamma, per essere professionista, per ricordarsi ogni tanto anche di essere moglie, visto che ha un marito anche lui molto impegnato nel mondo del lavoro. Se la sente di prendere le difese della mamma questa mattina? Assolutamente sì, anche se devo dire che i miei figli sono nella fase dell'affrancamento dal pannolino più che dalla mamma. Quindi ancora hanno bisogno della mamma, giustamente. Assolutamente, hanno bisogno della mamma e probabilmente in questa fase la mamma ha bisogno di loro proprio in termini viscerali. Poi per quanto riguarda... Però lei sta creando una sorta, mi consenta, di trappola mortale per i suoi figli, perché iniziando un blog che li celebra all'età di 5 anni, questi quando avranno 12-13 anni non vorranno staccarsi da questa celebrità che dà la madre nella cultura del loro pannolino, e quindi rimarranno sempre attaccati a lei. Questo è il suo scopo? No, io non li celebro affatto, anzi, io nel mio blog e nel mio libro far luce sul lato mostruoso della maternità anche, cioè la visione angelica della maternità secondo me non esiste né per le mamme né per i figli, è una visione ironica la mia, ma assolutamente non del miracolo della maternità, che non esiste assolutamente. Beh, è qualcosa che fa piacere, che dà soddisfazione, che rende orgogliosi, giustamente, e tutto ciò che viene dopo magari probabilmente, la fase dell'allevamento, la fase del mantenimento della propria dignità in un ruolo che molte volte ci vorrebbe ridotti a tappetino nei confronti di piccole fabbriche di cacca, di urla e di sapori familiari. Però io spero molto di avere l'atteggiamento della signora che ha parlato prima, la signora Anna, che dice: sono ambivalente, da un lato li vorrei cazzare, dall'altro mi sento molto mamma, nel senso che le mamme non sono monoliti. E poi soprattutto, dov'è il papà in tutto questo? Quando i figli si trasformano in amebe, sanguisughe che succhiano il sangue della mamma e non la affrancano mai, e la mamma non li affranca da loro, un papà saggio che dice: oh bambini, fuori, dov'è? Ma Claudia, lo sai meglio di me dov'è il papà, e il papà è attaccato alla sua mamma a sua volta perché fa parte di una generazione che ha incautamente pensato di mettere in discussione tutti i principi passatisti del pensiero forte legato ai valori, legato alle regole, e nella loro sregolatezza, ahimè, tutti i figli del 68 sono i peggiori mammoni e tutte le mamme del 68 sono le peggiori mamme distruttrici di figli. Sei d'accordo, Fabrizio? Beh, sì, perché il problema appunto è ormai che il mammismo si è stratificato, cioè anche riguardo alla polemica dei bamboccioni sembra che sia un fenomeno attuale e moderno, mentre invece ci sono generazioni di mammoni che oramai si sono accumulate nella società e molti di loro sono quelli che non riescono a fare il papà. La canzone che abbiamo sentito è del 40, capisco che c'era la guerra, che c'era altri momenti, altre retoriche imperanti, però un uomo adulto che canta quelle parole sarebbe da internare, oggi lo manderebbero da uno psichiatra. Nella migliore delle ipotesi, nella peggiore delle ipotesi, se lo tengono e diventa il padre assente di cui sta parlando. Certo, poi ci sono delle punte dell'iceberg, che sono quelli che a 53 anni si fanno dare la paghetta, quelli che vengono chiusi in casa dalla mamma novantenne perché hanno disubbidito. Quelli sono ormai dei fenomeni, delle macchiette. Sono ma quei sotto... simpatici casi che ogni tanto di cui leggiamo nelle cronache, che li troviamo con la mamma mummificata chiusa nell'armadio, che non se ne separano mai. Assolutamente sì, e quelle sono ovviamente psycho, degli l'elemento estremi. L'elemento chiave di questa storia. Certo. Ivi, buongiorno. Buongiorno. Lei ha affrontato un argomento che... che mi costerà la vita, lo so, però andiamo avanti. Un ottimo argomento. Dunque, niente, io ho avuto due figli, sono 72enne, e li ho abituati, come sono stata abituata io, perché ho vissuto all'estero, ad essere indipendenti. Purtroppo mio figlio, dopo la trentina, mi ha detto: mi hai lasciato troppo solo. Ma probabilmente perché, avendo frequentato tutti questi mammoni che ci sono in giro in Italia, si è sentito forse un po' in ritardo solo, non lo so. Comunque io sono del parere che... Le posso ragazzi... dire? Mi scusi, Ivi. Sì. Le parole di Beniamino Gigli. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più, mamma, no, mai più, questo no, è il senso. No, mia madre mi ha lasciata. No, ma dico, suo figlio avrà probabilmente, si sarà imbevuto di questo spirito che aleggia, che vive, di cui siamo noi stessi nutriti, forse l'abbiamo nel DNA, alle nostre latitudini, visto che lei è straniera, individua questa nostra caratteristica tipicamente nazionale del mammismo, ma... Qualunque uomo noto, qualunque uomo grande, qualunque uomo famoso, uomo di potere, quando può, tira fuori l'icononcina della mamma e dimostra anche lui è umano, perché anche lui è la mamma. Ci sono questi legami indissolubili con la mamma che danno valore e esistenza. Ecco, se io ho una mamma a cui da venerare, sono considerato un essere umano, che probabilmente non è vero che sia secondo natura questo atteggiamento. No, dunque... La mamma è sempre disponibile per i figli, ma non deve condizionare la vita dei figli. Mio marito è stato un po' condizionato dai suoi. E vedo in giro tutti questi amici nostri condizionati proprio. E poi la televisione. E lo Scotti che chiede sempre se è sposata, quanti figli ha, e la mamma e la nonna, eccetera. Ma insomma, siamo persone individuali, attaccatissime alla famiglia, d'accordo, però... abbiamo una vita nostra, non possiamo dipendere né dai figli, né i figli devono dipendere da noi soprattutto. Invece vedo qui queste persone anziane che contano assolutamente sui figli. Io ritengo che sia sbagliato. Ivi, le diamo una rappresentazione drammatica, so che le farà male sentire quello che stiamo facendo ascoltare, so che anche chi ci ascolta, che farà velocemente l'800240024 per aggiungere la sua testimonianza a questo processo che fa male a me per primo, sono io il primo a soffrirne, ma trovo che sia necessario e generoso. Beh, questa è una testimonianza tratta dal mondo della rappresentazione fantastica del reale, ma molto meno irreale di quello che si creda. Caro Frecchia, abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. Il delinquente assassino, F. Tendone, risulta morbosamente attaccato a questa mamma. Tant'è vero che rischia continuamente la galera per venirla a trovare. Siete sicuri? Sicurissimi. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana, ovviamente. Mi è venuta così. Andiamo. È permesso? È mio. Non c'è nessuno? Fischio! Chi è? Ecco! Da un vaso, da andare meglio! Non scappare! Oh figlio mio, ma voglio coccolazzare io bello, bello sto figlio mio, benedetto! Nelle tante rappresentazioni del dover subire come condizione esistenziale assolutamente impossibile da evitare dei personaggi di Paolo Villaggio, c'è anche Fracchia la Belvomana. A un certo punto Fracchia, che è il sosia di un pericolosissimo gangster delinquente, che però è uguale a lui, deve entrare in contatto con la madre che determina l'essere delinquente della belva umana. Ma mentre la belva umana, in quanto spietato, prende a calci la madre, la maltratta e tutto, Fracchia, che deve subire, la subisce in tutta la sua eruzione esagerata di mammismo. Lo bacia, lo sbaciucchia, lo riempie di cioccolata, lo riempie di dolci. Insomma, fa quello che la mamma che questa mattina stiamo processando, e Dio ci perdoni per quello che facciamo, ma ci rendiamo conto che forse è necessario per molte persone che ci ascoltano. Beh, la belva umana di Fracchia, nella sua estrema rappresentazione, forse vi ricorderà qualcosa la vostra esperienza personale. Melog 2.0. Figlia, come sei buono oggi! Tutto ti lasci fare, tutto mangiasti, eppure lo pastrocchio di cioccolata volesti, e per la gioia da mamma tutto quanto lo tragana. Senza panna? Certo. Bravo questo figlio mio, bravo, ancora figliozzo, ancora. Dormi, dormi, figlio santo, e la mamma sta qui accanto, mangiottando lui, figliuzzo, che ora bravo Paolo Tozzo. Abbiamo risparmiato il ruttuzzo del figliuzzo perché non sono gradite queste cose, però immaginate che la madre si tiene legato il figlio anche con il controllo di tutte le sue esalazioni corporali, la mamma che la cambia il pannolino, che porta trionfante il pannolino pieno in giro per il mondo mostrando quanta n'ha fatta al suo bambino, che attende spasmodica l'esito del ruttino, che controlla ogni emissione, ogni minima mutazione di questo esserino che lei alleva, ma che sarà tale anche quando avrà i capelli bianchi, anche quando avrà la panza, anche quando sarà peloso, schifoso e puzzolente, perché i figli sono sempre pezzi di cuore. Dice Cinzia, vi leggo qualche messaggio su Facebook che sono scatenati questa mattina. Dipende da come si uccide sta madre, c'è il rischio di ricrearne altre nei rapporti interpersonali, nel lavoro, in pratica dentro se stesse. Psycho Docet, infatti abbiamo citato Psycho, il grande capolavoro della mamma mummificata e continua a muovere la mano assassina del figlio a lei legato. Poi se il mammismo è in aumento, dice Andrea, è perché con il passare del tempo le tecniche di plagio psicologico adottate dalle mamme sono sempre più sottili, i plagiati sempre più puntini puntini, vorrebbe dire idioti probabilmente. Giovane Banfo, si qualifica da solo l'amico che si piange addosso, ma si sa bene abbracciati al seno della mamma. Poi, poverette, sono spesso dilettanti improvvisate per un lavoro improbo, volete anche processarle? Questa è una fa parte della difesa delle mamme. Angela, certo, si trova una giustificazione a tutto, allora che diciamo della cultura millenaria che delega alla mamma tutte le responsabilità? Infatti è qualcosa di molto articolato e molto difficile. Il processo alla mamma, facciamo questa mattina, la difesa è a Fabrizio Blini e, no scusate, l'accusa. L'accusa è Fabrizio Blini e la difesa è a Claudio De Lillo. Claudio De Lillo, devo darle la parola perché è quella che ha parlato meno. Ho portato molti argomenti cercando di essere naturalmente imparziale al di sopra delle parti, ma vediamo se lei può portarne a favore di questa figura che stiamo, ahimè, togliendo dalla sua sacralità. Secondo me è un problema proprio di legami morbosi che prescindono dalla maternità, cioè uno può avere legame morboso con il fidanzato, il fratello, l'amico, l'amica, quindi si rientra nella patologia, cioè la mamma che porta in trionfo il pannolino del bambino è perversa secondo me. Cioè, il guardi, bambino fa schifo. Se lei le posso dare dei suggerimenti, dei link su YouTube, esistono un'infinità di saggistica filmata in cui si mostrano i vasini, i pannolini, i flaconi di pipì raggianti di gioia per questa fabbrica questa di escrementi che hanno in casa. È integralismo della maternità, non si fa, va vietato per legge. E poi secondo me un'altra, lei è proprio cosa... un avvocato d'ufficio che sta lì proprio perché ci deve stare, ho capito. No, No, però secondo me una cosa che favorisse questa morbosità dei rapporti è il figlio unico, perché io credo che le madri di figli unici siano molto più portate ad avere questo atteggiamento da chioccia, vita natural durante. Se si spalma quel briciolo di morbosità che abbiamo tutte, è inutile negarselo, probabilmente si rischia di fare meno danni. Ecco. Oggi, grazie a Dio, grazie alle maternità indotte, spesso il figlio unico diventa un parto plurigemellare, ne arrivano 6 o 7, quindi hanno il problema distribuito perlomeno fra 2 o 3 fratelli, che forse anche meglio. Fabrizio, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Sì. Lei fa le parti della mamma, le difese della mamma, o approfitta di questo angolo di libertà per parlare male della mamma? No, io sono per accusarla al 100% di atteggiamenti, diciamo, anche mettono a rischio l'incolumità dei figli. Faccio degli esempi pratici, perché le prove devono essere certe. Dunque, l'esempio pratico può essere sul caso mio. Il caso mio, che prima ancora di sposarsi, di avere figli, avevamo un atteggiamento tutti e due molto spartano per la vita. E senza incurarsi anche non incontro, anche esperienze di viaggi e compagnia bella, dal momento che è nato il primo figlio è cambiato tutto. E beh, però è lievemente diverso. Lei accusa sua moglie di non essere più donna, femmina, amante, donna, compagna di viaggio, ma essere dedicato totalmente ai figli. È un altro problema, però, questo. È stato spodestato dal suo ruolo di marito in nome di questo mammismo che è esploso in una donna. Sì, ma lei sospettava che in sua moglie covasse questo mammismo? No, assolutamente. Quindi è esploso con una bomba orologeria e l'ha relegata fuori. Poi oltretutto anche quando è arrivato anche il secondo, la bimba. Ma lei soffre anche del problema estremo di questo atteggiamento, che è lo spodestamento del talamo, i bambini che vengono a letto e è finita. Anche perché diciamo che basta che la bimba, non è più una bimba, che insomma ha 12 quasi bimba, 13 fra un po' anni, come si sente male, un pochino di raffreddore, un pochino di tosse, viene subito nel lettone. Anzi, non vorrebbe andarci lei, però è la mamma che la richiede, perché... Forse cerca delle scuse per non star vicino a lei. Lo dico con grande franchezza, può accadere anche questo. Sì, però bisogna dirsi le cose fra uomini, inutile negarsele. Certo, no. Sono escamotage molte volte per allontanare il debito che non è sempre gradito. Forse è questo, non lo so, potrebbe essere. Rifletta su questo, so che è doloroso, ma occorre avere lucidamente quella che è la realtà davanti. Claudio De Lillo, so che lei deve tornare al suo lavoro, però può dire ancora 2 parole per questo disperato e povero ascoltatore che al mammismo deve la sua felicità, ha sacrificato la sua felicità coniugale. No, questo è veramente pericoloso. Io mi associo al sospetto che la moglie non aspettasse altro che una scusa per fuggire. Perché un sospetto che ha una coda lunghissima, potrebbe arrivare ovunque, ma non vogliamo infierire. No, infatti, non infieriamo. Però sappiamo di cosa si tratta. Assolutamente. La ringrazio, Claudio De Lillo, la saluto. Andiamo avanti, se possibile, con un altro contributo della meravigliosa rappresentazione della mamma che crea tanti problemi a tanti figli. Ma non ci abbiamo più, è finita? Beh, benissimo, pensavo ce n'era un'altra, Fracchia Belva Umana. Immaginavo già il passo successivo rispetto allo spalmamento di cioccolata all'ipernutrizione, che era riferito ad altre funzioni che mi hanno fortunosamente risparmiato. Fabrizio Blini, autore di Mamma Mia, Baldini e Castoldi, Dalai Editore, quindi abbiamo detto editore, quindi se vi servisse questo manuale di difesa dalla mamma sapete come trovarlo. Vediamo. Potrebbe avere il sospetto che ci ascolta che le tue siano soltanto delle supposizioni o il frutto di un'acrimonia, di un'esperienza personale, ma tu hai scientificamente analizzato il problema. E tutto parte da una rappresentazione grafica molto interessante, su cui penso tu abbia studiato, che è il quadrante uterino. Ecco, dal quadrante uterino noi risaliamo a quella che è la formula per definire il mammismo. Ma nel quadrante uterino io mi sono divertito a classificare le mamme. perché poi non tutte le mamme sono uguali, perché ognuna ha le sue tecniche, ha le sue peculiarità caratteriali, per cui nel quadrante uterino, per esempio, la mamma di, della belva umana che abbiamo visto prima si qualifica come mamma iperprotettiva o lupa mammara, sono proprio quelle più ossessive, quelle che non ammettono nessuna separazione tra lei e il figlio. In questo caso è corretto pensare che l'ipernutrizione in realtà è una sorta di doping, una sorta di droga per imbolsire il figlio e impedirgli di avere una sua motilità? Assolutamente sì, infatti c'è un capitolo nel libro che si intitola proprio Il peso della mamma nell'obesità dei figli, cioè la mamma cerca, molte mamme cercano di colpire il figlio alla gola, perché è uno dei punti in cui il figlio è più sensibile, e lo dimostra il fatto che molti mammoni adulti elogiano la mamma dicendo il sugo come lo fa mia mamma, i tortellini. Penso sia la croce di tantissime mogli, spose, fidanzate che non riescono a mettere su un soffritto decente, perché c'è sempre il soffritto della mamma che è quello che è la quintessenza. C'è sempre il paragone, oppure che in cucina riguarda le tagliatelle, i tortellini o le lasagne, ma riguarda anche altri aspetti, come stira le camicie mia mamma, come lava i panni mia mamma. È sempre un confronto continuo a cui molte mogli purtroppo sono sottoposte. È il caso di Tina. Tina, buongiorno. Buongiorno, telefono da Bergamo, grazie di avermi chiamato. Io volevo far notare questa cosa: il troppo amore può far male o dato male, però la mancanza di amore, secondo me, è molto molto più grave. Ah, certo. Se noi guardiamo i vari fatti di cronaca nera che succedono, alla base c'è sempre mancanza di amore, mancanza di famiglia. Io non mi vergogno assolutamente di essere una mamma che ama i propri figli, perché qui si sta dicendo che quasi è una colpa amare i propri figli. È giusto, finalmente c'è una difesa accorata alle mamme. Non diciamo che è una colpa, diciamo che a un certo punto non ci dobbiamo lamentare se vediamo degli esseri flaccidi, amorfi, privi di personalità, incapaci di gestire dei rapporti, delle relazioni, dei sentimenti, delle passioni, perché c'è sempre questa presenza incombente alla mamma. Viva la mamma, benvenga la mamma, grazie a Dio c'è la mamma, ma esiste un momento in cui la mamma deve fare un passo indietro. Lei è disposta a fare questo passo indietro? Fare un passo indietro. Una figlia si è trasferita via Reggio e l'altra si è trasferita a Como. Ieri sera ho dovuto anticipare il Natale con quella di Como per partire domani e andare via Reggio. Queste sono piccole lacerazioni per una mamma. Cioè un finto Natale con quella di Como, sì, per andare e con l'albero, con l'albero, i doni, Buon Natale, il vischio. Lei non mi prende in giro, no. Mi ha messo nella valigia piccole cose che ieri sera ho usato per l'altra figlia. Ma... e questa lacerazione poi è avvenuta anche quando le ho dovute lasciar partire tutte e due, e però adesso mi sto quasi rassegnando. Ma lei avrebbe preferito continuare a tenerle vicino a lei, naturalmente. Mi dica, lei è sbagliato? No, e lei deve dire quello che pensa. Io non sono mamma, non lo so, non ho questa esperienza. È una cosa che tu non puoi dire è sbagliato o non è sbagliato. Ma io ho dei figli, ma il mio atteggiamento di padre è dare a loro dei pattini a rotelle perché corrano veloci il più possibile lontani da me quando ne avranno possibilità. Questo spererei, però non lo so, forse sbaglio. No, ognuno deve fare il proprio ruolo. Ecco perché è giusto che famiglia, deve esserci papà e mamma. Mio marito era molto presente con me ieri sera quando c'era questo piccolo nucleo che ricreeremo via Reggio il giorno di Natale. Senta, secondo quale, posso farle una domanda? Mi viene una curiosità. Sì. Secondo quale sorteggio una delle due figlie un po' più sfigata deve fare il Natale finto e l'altra fa quello vero? Non c'è nessun sorteggio. L'anno scorso sono stata a Viareggio per Natale e quest'anno qui a casa mia con quella di Como. Cerco comunque di essere equivalente. E c'è sempre il maschio che ci rincorre. Ieri sera era qui con noi. Quindi il maschio è costretto a fare due Natali. Fa un triplo Natale il maschio. Sì. No, ma è bello, tra virgolette. E sarà però felice. C'è questa piccola sofferenza di non poterli avere tutti insieme. E non mi vergogno, perché mi dispiace, fino a non si... non mi vergogno di essermi assunta tanto tempo fa, forse molto più coscientemente delle mamme di oggi mi vogliono scusare, di essere mamma, di lasciare il lavoro, e non le condanno, ma davvero alcune volte bisognerebbe farlo. Io la ringrazio, le faccio tre volte gli auguri di Buon Natale, visto che lei ne fa almeno tre, e spero che questo accada anche per tutte le altre feste comandate. Melog 2.0. Mi scrive su Facebook Joshua: il tempismo di questa trasmissione è dir poco incredibile. Proprio stamattina viene a trovarmi mia madre, un viaggio progettato da un anno, mille volte rimandato. Proprio ieri sera era fuori di me, per i mille traccheggiamenti che stava ancora mettendo in mezzo. Il treno sì, il treno no, quale? Vengo la mattina, no dopodomani, no dopodomani ancora. Tua sorella non può accompagnarmi. Dice, se oltre alle porte di Giano è pure la sfera di cristallo. E Ombretta, buongiorno. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Mi stupisce un po' il fatto di come anche è stata impostata la trasmissione, visto la sua intelligenza, il processo alle mamme, ma probabilmente è perché si guarda l'aspetto evidente della situazione. Io sono profondamente convinta che il mammismo, e soprattutto qui in Italia, è il figlio diretto e prediletto del maschilismo. Perché a sua volta è un esito di mammismo. Io faccio bed and breakfast e le garantisco che ho visto famiglie non italiane gestite in modo completamente diverso, in cui appunto non hanno problema di mammismo in Svizzera, in Germania, in Francia un po' di più, in Inghilterra manco per niente, perché comunque la famiglia è intesa come padre, madre e figli, madre, padre, figli, li metta come vuole. Però la gestione della famiglia, l'educazione dei figli, non viene demandata a una sola persona come si fa in certe culture tipo la nostra, cioè la mamma, la madre. La madre è nata per essere madre e il suo compito è quello. E il padre cosa fa? Il padre guarda e dice: devi fare. Questo è. Lei posso dire la cosa, signora? Mi permette che la interrompa. Devo dire che ha molta ragione. Guarda, le faccio un esempio personale, visto che non ho pudore di raccontare cose mie personali. Io, per motivi chiaramente contingenti, mia moglie fa il mio stesso lavoro, quindi dobbiamo incrociarci degli orari di lavoro, o chi ha i giornali, chi ha la radio, chi in altri posti, in cui è necessario che qualcuno stia a casa comunque con i figli, dal primo momento fino alla crescita dei figli. Quindi io non avevo nessun problema a cambiare i pannolini ai figli, a fargli le pappine, a lavarli, a fare tutte le cose che devo fare. Guardandomi intorno fra i miei colleghi e i miei amici, mi sono reso conto che avevo persone che hanno figli di 15 anni, non avevo mai pulito il sedere in vita loro. Quindi probabilmente lei ha proprio ragione da questo punto di vista. Altro che se ho ragione, sono sicurissima di avere ragione, perché io ho rinunciato. Ecco, però le posso dire una cosa: perché non fanno questo? Perché hanno avuto una madre che ha loro insegnato che questi non sono lavori da uomo, che l'uomo fa altre cose, queste cose le fa sempre la mamma. Certo, ma perché purtroppo hanno avuto una madre, una persona, hanno avuto per genitore una persona, non madre, padre, una persona, il cui unico ruolo nella vita è stato quello. Nel momento in cui un figlio prende e se ne va, cade un ruolo, cade uno scopo, cade una personalità, e questa persona va a finire in pappetta praticamente. Quindi il timore di essere... non continua ad avere questo ruolo. Di essere messa in pensione... Il timore della mamma è di andare in pensione, non vuole mai andare in pensione. E poi non va neanche mai in pensione, perché comunque accanto a sé, se ha ancora un marito, ha ancora un padre, padrone, che vuole comunque continuare a gestire il figlio, ma lo fa sempre attraverso la moglie, la madre. Cioè questo è un problema di struttura proprio profonda, culturale, che abbiamo noi qui in Italia, probabilmente anche da qualche altra parte, non lo so, ma è un sistema micidiale infernale da cui qui in Italia da sole noi donne non ne possiamo uscire, finché non ci rendiamo conto di questo giochetto, che è un giochetto fatto alle nostre spalle. Si può dire una cosa, signora? Cominciate a lavorare sui figli, che vi devo dire, tanto ormai ti ha dato garantito. Mio figlio non è come mio marito. Va bene, grazie. Garantito, grazie a lei. Fabrizio Blini, io qua ho una classificazione di mamme che hai fatto nel tuo libro. Potrei individuare fra le tante che vedo davanti la mamma vittima, che assomiglia un po' qualcosa alla mamma vittima, che è una vita fatta di lunga sequela di sofferenza, occasioni subite, pretesti per inventare torti, che sono sempre torti del figlio. Vediamo, ne hai altre: la mamma totale, la mater killer, la mamma iperprotettiva, la mamma amica. Certo. Rispetto a quello che ha detto adesso la nostra ascoltatrice, Io ho trovato del senso di giustizia nelle sue parole. Beh, assolutamente sì, però come dicevi anche tu, è frutto di una cultura che ormai si tramanda per generazioni, per cui l'incapacità del maschio di dare il suo dovuto contributo alla crescita dei figli nasce proprio dal fatto che probabilmente è un mammone. Questo è un fenomeno, il mammismo è un fenomeno assolutamente diffuso e conosciuto nella sfera privata, ma poco riconosciuto in una dimensione pubblica. Quindi la risoluzione del problema diventa difficile perché non si è configurato il problema. Cioè uno dovrebbe prima prendere coscienza del proprio mammismo e uscirne fuori, sia che abbia una... Nel tuo diagramma uterino esiste questa possibilità? Io per adesso mi sono limitato a configurare il problema, soluzioni ancora non ne ho trovate, perché poi io guardo il mondo con gli occhi della vittima, non con gli occhi dell'accusatore. La dedica del libro è a mia mamma prima che s'offenda. Proprio... 800 24 0024, chi tra le persone ci ascoltano è capace di formulare, di elaborare l'algoritmo per uscire dal mammismo, ce lo faccia sapere, ci farà un grande favore. Sonia, buongiorno. Buongiorno. E io sono praticamente una figlia che per tutta la vita ha subito questa grande differenza di trattamento tra figlio maschio e figlia femmina, e quindi mia madre questo super mammismo lo ha portato avanti sempre ed è stato praticamente causa di tante brutte situazioni, del divorzio dei miei genitori, perché mio padre non... anche se voleva partecipare all'educazione di mio fratello, non gliel'ha mai permesso. E c'è una sorta di adulterio simbolico non consumato. Sì, guardi, una cosa che esisteva solo mio fratello, anche non esisteva dire di no, ma solo di sì a lui. Se combinava danni, guai, lui andava sempre capito, perdonato, giustificato. Adesso cosa fa suo fratello? Vive con sua madre? No, nostra mamma è morta nello scorso gennaio e quando è morta lui non c'era perché aveva altro di meglio da fare. Piuttosto che andare al funerale. E anche lì durante la malattia, che è durata un anno, anche lì lui è sempre stato latitante, mia madre lo ha sempre difeso anche in quel caso. Quindi pensi che le persone che avevo intorno... nel corso degli anni hanno talmente notato questa disparità di trattamento tra me e mio fratello che tante persone mi hanno detto: ma sei sicura che non ti hanno adottato? Senta, ma lei in questo momento cruciale in cui vedeva la madre nella sua fase terminale, suo fratello, il fratello idolatrato distante, aveva una sorta di compiacimento e una sorta di necessità di dimostrare alla madre, vedi, hai investito male il tuo affetto? Sì, da una parte sì, e questo l'ho sempre cercato di fare da sempre, perché io dico, ma vedi, guarda, neanche nelle altre situazioni, negli anni passati, in tutte le situazioni che si presentavano, ma vedi, succede questo, cioè lui non c'è, va contro di te, tu lo difendi sempre, ma non è giusto perché sta sbagliando. Cioè, quando a un figlio bisogna dirgli di no o bisogna sgridarlo, tu lo devi fare. Vabbè, quanti anni ha suo fratello? Suo fratello quanti anni ha? Ormai? 44, quindi 3 anni più di me. Non è più un bambino, ormai cosa vuole sgridare? Un uomo di 44 anni. Sì, no, ormai infatti questo, ormai ultimamente, negli ultimi anni, quello che io gli dicevo sempre... Sì, però adesso... questo lei sa che accade anche per le donne della categoria così definita da un noto filone... descrittivo, romanzesco, documentaristico americano: le donne che amano troppo amano proprio gli uomini che le bastonano, le trattano male, le rifiutano. Quindi è logico che in un rapporto amoroso anche fra madre e figlio, più si sente allontanata, disprezzata, e più aumenta, esplode questa furia amatoria. Vabbè, in bocca al lupo. Salve Fabio, buongiorno. Buongiorno a lei. Faccio la sua domanda, perché è fondamentale. Sì, secondo me è proprio una domanda. Sono un presunto / probabile figlio di mamma. Ma quanti anni ha lei, Fabio? 42. 42, 42, sì. La domanda che mi faccio ma spesso... se ne è liberato o ancora subisce? No. Vive con la madre? No. Però è un rapporto speciale. Quante volte al giorno la sente? Una volta sicuramente, qualche volta due. Al telefono? Sì. E le feste comandate le passa con sua madre? Sì, assolutamente sì. Voglio dire, le vacanze? e quando posso sì, gli faccio un lavoro per il quale giro molto, per cui normalmente... Non per entrare nella sua sfera privata, lei ha una sua storia sentimentale, relazionale, oppure vive solo? Sì, no, vivo da solo, ma ho anche la mia storia, barra storia. Riesce a equilibrare sì. Queste presenze? Sì, faccio del mio meglio per farlo, per riuscirci. E qual era la sua domanda? Se questo può essere considerato un comportamento normale o patologico? No, voglio dire, se il rapporto è tale, perché comunque è frutto, come posso dire, di un rapporto semplicemente di amore, come io posso certo, avere per la mia donna, piuttosto che per il mio migliore amico, forse per lei, se ci conoscessimo meglio, voglio dire, se questo attaccamento è frutto semplicemente di un rapporto speciale di amore che può esserci o ci si può riuscire o no. Voglio dire, se questo è poi il risultato è una cosa così... particolarmente negativa. In soldoni, perché me ne devo vergognare se io sto bene? Caduco bene. Fabrizio Blini, la mamma per amico è stata analizzata comunque nel suo lavoro? Beh sì, rispetto alle mamme di quella generazione che oggi ha circa 40 anni, che vede più mamme vittime, queste mamme ricattatorie che crescono con i sensi di colpa, è venuta fuori poi una generazione di mamme, le mamme del 68, che sono invece le mamme amiche, no? Quelle che... Porta pure la tua compagnetta a casa, non importa, la mamma esatto. Ti lascia pure lo spazio se vuoi, è giusto che tu ti esprima. Che poi la verità è finta. Certo. Questa cosa, deve sorvegliare. Poi la mamma, c'è una legge che ho scritto nel libro che la mamma è il preservativo del preservativo, cioè perché ovviamente non vuole, anche di fronte a una manifesta liberalità, non vuole che il figlio si conceda a un'altra donna, il figlio deve rimanere quindi con una lei. Finta sicurezza, in realtà quando è troppa sicurezza diventa una camera di sicurezza, diventa una gabbia, una prigione. Beh, noi abbiamo dato e di questo volentieri pagheremo. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.